Spesso gli episodi di violenza nei confronti degli omosessuali o delle lesbiche avviene quando questi manifestano dei momenti affettivi, si abbracciano, si baciano. E allora baciamoci è un appello alla liberazione e all'uscire dalla clandestinità e ed essere tutti più visibili. Quindi baciamoci. Che tipo di lavoro, quanto ci ha messo per realizzare questo progetto? Beh, il film è nato circa 3 anni fa, si basa su una lunga intervista fatta con Franco in diverse tappe a casa sua, quando peraltro stava meno bene di quanto non l'avete visto oggi. Da lì abbiamo costruito una sceneggiatura con Donata Zanotti, co-sceneggiatrice del film, e poi è nata l'idea di prendere per mano Franco, così com'è, e di portarlo nei luoghi della sua vita, della sua storia. Abbiamo girato a Bologna, a Roma, in Romagna, a New York, con una troupe anche molto leggera, con 3 o 4 persone con cui io ormai lavoro da 10-12 anni, con cui condivido anche un modo di fare e di intendere, delle affinità comuni molto, molto forti. E quindi è nato questo film, che è una camminata musicale con le musiche di Paolo Fresu, che ci conduce verso 40 anni di storia in cammino in bilico tra pubblico e privato di Franco Grillini. Mi sembra di capire che anche, diciamo, un po' il suo grido contro quelle che possono essere discriminazioni, come se lei avesse voluto mettere uno stop anche visivo a queste situazioni. Beh, Franco ha sempre avuto la grande abilità di rispondere con l'ironia alle accuse, alle volgarità che gli venivano lanciate, e il film credo ne sia una dimostrazione. La leggerezza, il suo essere poetico, il suo essere empatico con l'altro, essere sempre disponibile a porgere l'altra guancia, però in un modo intelligente, con la battuta sempre pronta, e questo fa parte del personaggio, e abbiamo fatto di tutto perché questo sia anche la cifra del film. Franco Grillini. Credo che si possa dire, dobbiamo andare a Berlino, al Festival di Berlino, a metà novembre. Io sono molto contento anche di questa cosa, e su questa questione dell'affettività io ho assistito molto fin dall'inizio della mia militanza, addirittura dalla prima riunione che ho fatto con il Cassero, perché proposi di fare un manifesto, che poi so se qualcuno di voi l'ha visto, ci sono per l'inaugurazione del Cassero 40 anni fa, c'erano 2 ragazzi abbracciati. Per la cosa fondamentale nella vita di ogni essere umano è non essere solo, avere delle relazioni significative, siano esse d'amore, di amicizia, di frequentazione, di coesione sociale, qualsiasi motivo, l'importante è mettere al centro della vita umana la relazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare, ed è quello che abbiamo cercato di far vedere anche con questo film. Qual è stato il momento significativo che è ripreso anche nel film in cui tu hai pensato questo è un passo avanti? Beh, per esempio la mia elezione in Parlamento è stata una bellissima esperienza, poi ahimè, come sapete, la legislatura Prodi si interruppe bruscamente, e però eravamo riusciti ad approvare la legge sull'omofobia, che aveva 29 articoli, quella che avevo proposto io in commissione, ma con la caduta della legislatura venne meno, e lì i momenti significativi sono stati tantissimi in Parlamento. I litigi, per esempio, con la destra, addirittura un giorno la destra è uscita dall'aula perché io criticavo il ministro Tremaglia, e poi i battibecchi che ci sono stati, cose anche non sempre, come dire, venate da polemiche, ma a volte anche simpatiche. Poi di significativo ci sono i grandi avvenimenti, pensiamo al World Pride, questa che sembra una mascherina a rainbow, in realtà è il nastro appena tagliato della grande manifestazione del 2000 a Roma, che fu segnata da tantissime polemiche di cui noi avremmo fatto volentieri a meno col Vaticano, polemiche che ahimè esistono a tutt'oggi, perché come sapete la nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana sulla legge Zan è stata molto brutale, quindi io spero che anche da questo punto di vista cambino idea, perché per esempio il Vaticano ha cambiato idea su unioni civili, adesso dice che l'unione civile è una legge giusta. L'avesse detto 20 anni o 40 anni prima, noi avremmo potuto dotare l'Italia di una legislazione civile molto prima di quanto poi in realtà non è avvenuto. Quindi i momenti significativi sono tantissimi, per esempio la contromanifestazione del Family Day nel 2007, che fu una manifestazione gigantesca. Io mi ricordo di aver parlato alle 9 di sera a una piazza San Giovanni stracolma, con tutte le vie laterali stracolme. Questa presenza di massa che caratterizza per esempio le manifestazioni dei Pride, purtroppo adesso col Covid nessuno può fare manifestazioni di un certo livello, però nel 19 ci sono stati 41 Pride con 1 milione di persone per strada. A Milano c'erano 300.000 persone con 40 gradi all'ombra, la gente perdeva le scarpe nell'asfalto sciolto. A Bologna addirittura eravamo sotto la grandine, e non si è spostato nessuno, c'è le persone addirittura ferite della grandine, ma nessuno è andato via, sono rimaste fino alla fine. Ci sono delle scene nel film dove sembra di essere nell'India dei monsoni, e fu una manifestazione strepitosa perché qualcuno disse che Dio ci aveva punito con la grandine, ma in realtà alla fine sono spostati 2 arcobaleni, sono le foto con 2 arcobaleni, quindi come si dice nella Bibbia, abbiamo ritrovato l'equilibrio e la pace col mondo. Questa manifestazioni così gigantesche, così di massa, così enormi, segnano un punto di arrivo sul fatto che moltissime persone partecipano a queste manifestazioni perché ormai sono le uniche dove uno può esprimere un desiderio di libertà individuale che è universale, non è solo della collettività LGBT, di tutti. Laicità dello Stato, libertà individuale, giorno di festa. Io spero che riusciremo a liberarci presto dal Covid e ritornare tutti quanti a fare queste gigantesche manifestazioni che avvengono in tutto il mondo libero, perché guarda caso dove ci sono le dittature non si possono fare, e quindi tutti quanti possiamo tornare a manifestare per questa libertà di cui tutti sentiamo il bisogno di nuovo di realizzarla in modo pieno anche con queste belle manifestazioni di festa. Telegrafico. Più ipocrisia nella società o nella politica? Beh, diciamo che c'è un rimando tra società e politica. Io non sono tra coloro che sostengono che la società è meglio dei politici o della politica. La politica è lo specchio della società. L'ipocrisia che c'è nella politica, diciamo, fa più male perché blocca le leggi. Blocca il rinnovamento, blocca il cambiamento. Nella società si tratta di fare un lavoro di lunga lena, come abbiamo fatto noi in questi 40 anni. Nella politica si tratta finalmente di avere quel rinnovamento che a Bologna abbiamo avuto con le elezioni, perché abbiamo una giunta di 30-40 anni, c'è stato un consenso a una nuova classe dirigente che abbiamo visto, che secondo me è fatta di bravissime persone, e quindi da questo punto di vista io sono molto contento.